Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nel paese carenze croniche e 20 anni persi, dice Confindustria, il proporzionale può essere fatale per l'Italia. Trump a Roma, l'incontro col Papa, che gli regala un libro sull'ambiente, in corso il vertice con Gentiloni. Attentato a Manchester, è probabile che l'uomo che ha colpito non fosse solo, dice il governo, l'arrestato è il fratello, allerta massima in Gran Bretagna. San Severo, provincia di Foggia, uccise una coppia dentro una gioielleria, si cerca il figlio che aveva assassinato un coetaneo per una ragazza. Rapporti coi clan per affari, manette i Cesaro, fratelli di un deputato di Forza Italia, sequestri per 70 milioni di euro. Un anno fa un duplice omicidio alle porte di Napoli, oggi l'arresto, mandante ed esecutore, un ragazzino di 15 anni per mantenere l'ordine nei clan. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Vi trasmettiamo oggi, così come lo faremo domani, in diretta da Auto Promotech, che è la fiera internazionale che si svolge a Bologna dedicata all'aftermarket automobilistico, e anche di questo parleremo oggi con il nostro Andrea Ferro, che si è fatto un giro e ci racconterà un po' di cose, e poi domani un po' più approfonditamente in diretta con Focus Economia, che sarà con me sempre, naturalmente, così come Effetto Giorno sarà in diretta anche domani. 349-238-6666 oggi, da qua, solamente per i vostri sms, e per la giornata di oggi, così come per quella di domani, sospesa la diretta Facebook, però vi daremo sempre qualche anticipazione prima, quindi andate sulla nostra pagina www.facebook.com/effettogiorno per avere aggiornamenti su di noi. In apertura dunque ci occupiamo dell'assemblea di Confindustria, delle parole del presidente Boccia, anche della reazione del governo, di quello che ha detto il ministro Calenda. Facciamo un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Eh sì, buongiorno. In apertura dei lavori un minuto di silenzio per le vittime di Manchester, quindi la relazione del presidente Boccia, tanti temi in primo piano: sostegno a crescita e investimenti pubblici e privati, questione industriale, azzeramento del cuneo fiscale per l'assunzione dei giovani, cambio salario, produttività, riforma del modello contrattuale. Ma partiamo dal patto per la crescita che Confindustria propone ad istituzioni e parti sociali per rilanciare il sistema paese, un patto di scopo, spiega il presidente Vincenzo Boccia, con l'obiettivo di uscire dalle criticità italiane e costruire un'effettiva dimensione europea. Il capitolo poi dei giovani e l'occupazione, sentiamo su questo le parole del presidente Boccia. La poca occupazione giovanile è il nostro valore sprecato. La nostra proposta è molto semplice: azzerare il cuneo fiscale e contributivo sull'assunzione dei giovani per i primi 3 anni, sapendo fin d'ora che dopo dovremmo ridurlo per tutti. Ma abbiamo il dovere morale, civile e politico di agire prima per le nuove generazioni. Il patto per la fabbrica con i sindacati, più produttività per aumentare i salari, il piano nazionale industria 4.0 con il governo, gli altri strumenti per la crescita indicati da Confindustria. Quindi la legge elettorale, il messaggio alla politica: non abbiamo mai nascosto la nostra vocazione al maggioritario, ha detto Boccia, e nel sentire questo passaggio restituisco la linea allo studio. Assecondare la tentazione proporzionalista che oggi vediamo riemergere in molte proposte per la legge elettorale potrebbe rivelarsi fatale per l'Italia. Comincerebbe una nuova stagione di immobilismo in un quadro neocorporativo e neoconsociativo. Il ritardo accumulato dal nostro Paese su molti fronti è il frutto malato di questo vizio antico, così come l'insana abitudine agli scambi con la politica. Questo il quadro dunque che arriva dalla relazione del presidente Boccia. È intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, un punto sulla sua relazione con Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Buongiorno a te, Simone. Sì, elezioni in prima battuta, il tema affrontato anche dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che dice che bisogna arrivare al voto in tempi giusti, evitando l'esercizio provvisorio dopo aver completato la ricapitalizzazione delle banche in difficoltà e con una legge elettorale che dia la ragionevole probabilità della formazione di un governo. Calenda promuove il patto per la fabbrica lanciato dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, e il governo, spiega, è pronto a fare la sua parte su produttività e salari. Sentiamo. Concordo con Enzo sulle finalità di un patto per la fabbrica che avvicini la contrattazione all'impresa. E siamo pronti a fare la nostra parte valutando un'ulteriore detassazione sui premi e sul salario di produttività. Questa è la strada per avere retribuzioni più alte e aumentare la competitività. Ancora una volta non mi pare che esistano scorciatoie. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro, annunciato Calenda, stanno lavorando a un piano lavoro e welfare 4.0 da presentare alla prossima cabina di regia. Sul fronte aziende, Calenda inoltre dice no al protezionismo, ma ribadisce la necessità di una norma antiscorrerie sugli investimenti esteri. E nei prossimi giorni invierà alla Commissione europea una proposta italiana per una disciplina comune sulle acquisizioni di aziende ad alto contenuto tecnologico da parte di investitori di paesi extra UE. È tutto, restituisco la linea. E grazie dunque anche a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Torniamo a Manchester adesso per gli aggiornamenti dopo l'attentato alla fine del concerto di Ariana Grande, un bilancio che ci parla ancora di 22 vittime, di 20 feriti molto gravi se non in condizioni disperate. Il punto di oggi con Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Giorgia, buongiorno. Buongiorno Simone, ti sto parlando da Londra, che è oggi una città blindata. Il Parlamento di Westminster è stato chiuso su avviso di Scotland Yard, questo a soli 2 mesi dallo scorso attentato terroristico, come ricorderete. Cancellato anche il cambio della guardia a Buckingham Palace e anche tutti gli altri punti sensibili della capitale, come Downing Street e le ambasciate, da oggi sono sotto il presidio dell'esercito, chiamato a mettere a disposizione i propri uomini. Fino a 4.000 militari armati potranno essere dispiegati per difendere il regno in risposta ad uno stato di allerta che è stato innalzato ai massimi livelli, da severo a critico, perché un altro attentato è ritenuto imminente. Intanto ci sono 3 nuovi arresti, una famiglia intera a sud di Manchester, effettuati dalle forze di polizia che stanno investigando su una probabile rete di estremisti che avrebbe aiutato Salman Abedi ad organizzare la strage all'Arena lunedì sera. Questo dopo l'arresto di ieri del fratello del terrorista suicida. Di lui cominciano ad emergere dettagli significativi. Il 22enne era nato a Manchester ma di origini libiche, era noto ai servizi segreti. Era tornato dalla Libia giusto pochi giorni fa, aveva viaggiato in Siria e pare avesse legami comprovati con ISIS. Da Londra è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Grazie anche a Giorgia Scaturro per questo aggiornamento. Ci spostiamo a Roma, dove in visita, come ormai sappiamo, il presidente americano Donald Trump. Questa mattina ha incontrato il Papa, adesso in corso il vertice col presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Giorgio Stamatopoulos sta seguendo tutte queste vicende. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Simone. Sì, possiamo dire che con l'incontro con il presidente Mattarella e con quello con il premier Gentiloni di fatto si chiude questa 24 ore del nuovo presidente americano a Roma. Visite queste ultime di cortesia, vale la pena ribadirlo, ma importanti per le relazioni tra i nostri due paesi. Fondamentale era invece l'unica tappa ufficiale di Trump in Italia, l'incontro con Bergoglio, che è durato circa mezz'ora e il cui esito non era scontato per la nota distanza fra i due su vari temi come l'immigrazione e il rapporto con l'Islam, per citarne alcuni. Di colloqui cordiali anche sull'attualità internazionale ha invece parlato la sala stampa vaticana con una nota ufficiale. Parole che non dimenticherò, ha replicato l'inquilino della Casa Bianca al termine dell'incontro col pontefice, dopo il quale si è anche trattenuto col segretario di Stato vaticano Parolin. Il passaggio nella capitale di Trump ha avuto pesanti ripercussioni sulla città, fra caos e ingorghi, con i romani non proprio felici di avere un ospite così ingombrante in città, come possiamo sentire. Se non vado a lavorare manco magna. Ma perché né del Papa né del... Il Papa riceve tutti e riceve anche Trump. La metropolitana non si c'entra proprio. Siamo incazzati per la monnezza di Regù. Per me dire sì, questi cassonetti guardi, dove dobbiamo andare a buttare. POTUS, che è il nome in codice di Trump, la sua prima visita in Italia da comandante in capo, si è mosso con un lungo corteo di auto fra imponenti misure di sicurezza e intere zone della città off limits anche ai pedoni. Come sapete, l'Air Force One dovrebbe partire fra meno di un'ora per Bruxelles, dove Trump avrà una serie di incontri anche in vista del G7 che si apre venerdì a Taormina. E se non hai altre domande da studio, per il momento ti restituisco la linea. No, no, non abbiamo altre domande. Grazie a Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento e per le voci dei romani che ci hai fatto sentire, che fanno sorridere un po' tutti qua a Bologna, appunto, dal nostro stand, dal nostro studio di Autopromotech. Oggi visita anche, c'era anche la famiglia presidenziale che ha avuto un altro programma, oltre naturalmente a quello dell'incontro col Papa. Sentiamo. Elegantissime, un luxe vero, entrambe in pizzo nero come prevede il protocollo vaticano che consente il bianco solo alle regine cattoliche. Il capo, scoperto durante la visita in Arabia Saudita, al cospetto del Papa è rigorosamente coperto da un velo dello stesso colore dell'abito. Si sono presentate così Melania e Ivanka Trump, rispettivamente consorte e figlia di Donald Trump, durante la visita in Vaticano. Subito dopo l'incontro con Papa Francesco, niente shopping o passeggiate. Per la First Lady Melania, una rapida visita all'ospedale pediatrico Bambin Gesù sul Gianicolo. Di proprietà della Santa Sede da oltre 90 anni, al Bambin Gesù vengono assistiti piccoli pazienti provenienti da ogni parte del mondo. Melania, che è stata accolta da Mariella Enoch, presidente dell'ospedale pediatrico, e da due bambini che l'hanno salutata e baciata, si è fermata per un attimo di raccoglimento davanti alla Madonna posta all'ingresso e ha deposto un mazzo di fiori. La figlia di Trump, Ivanka, si è recata invece alla comunità di Sant'Egidio nel quartiere di Trastevere per incontrare insieme al presidente della comunità Marco Impagliazzo alcune donne africane vittime della tratta degli esseri umani insieme a volontarie della stessa comunità che seguono questa problematica. Dopo la partenza di Trump, Ivanka rimarrà a Roma col marito. Per lei è in programma una visita a Palazzo Chigi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo dalle parti del Vaticano perché oggi è arrivata la scelta su quello che sarà il successore di Bagnasco alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo. È toscano di Marradi, terra dura, di confine, ma questo non ha influito sul suo carattere, molto gioviale. Bassetti è stato votato dall'Assemblea dei Vescovi, ma era chiaro che alla base di tutto c'era l'orientamento del Papa, che lo voleva alla guida della CEI. Già questo fu chiaro 3 anni fa, quando a sorpresa lo nominò cardinale, la conferma è venuta nei giorni scorsi, quando lo ha prorogato nell'incarico nonostante il compimento dei 75 anni. Esperto delle dinamiche della Chiesa italiana, Bassetti è considerato un vero pastore, un prete diventato vescovo che spende molto tempo nelle parrocchie, fra i giovani, nelle fabbriche, specie quelle in difficoltà, e in questo sulle orme di Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, alla cui figura è molto legato. La sua indicazione da parte dell'Assemblea ha un significato anche politico abbastanza chiaro. La Chiesa italiana, considerata in molte delle sue componenti ancora restia al messaggio di Bergoglio, ha voluto dare un segnale invece di netto cambiamento. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di cronaca. A Napoli parliamo di due arresti eccellenti, di un'operazione anticamorra che ha portato in manette due fratelli di un deputato di Forza Italia. Sentiamo. Appalti, camorra, lo sviluppo del territorio e del malaffare. Un intreccio che, secondo l'indagine della Procura di Napoli, questa volta riguarda il comune di Marano, alle porte del capoluogo partenopeo. Questa mattina sono stati arrestati dai carabinieri del ROS con altre 3 persone gli imprenditori Agnello e Raffaele Cesaro, fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro, ex presidente della provincia di Napoli. L'ordinanza di custodia cautelare è stata richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nell'ambito dell'inchiesta che riguarda presunte infiltrazioni del clan Palverino negli investimenti che hanno un valore di 40 milioni di euro per il piano di insediamento produttivo del comune di Marano. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E come si diceva, siamo a Bologna in diretta da Autopromotech, la fiera internazionale, l'esibizione internazionale dell'aftermarket automobilistico. Ci racconta un po' che cosa rappresenta questa fiera, ci fa sentire magari anche una voce il nostro Andrea Ferro, che è in studio con noi qua. Andrea, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno anche da parte mia. Questa è una grande vetrina sulla quale si specchia un settore da grandi numeri, grandi prospettive, il settore che comprende tutto quello che riguarda le attrezzature e le attività dell'aftermarket automobilistico. Quindi riparazioni, pneumatici, carburanti, prodotti per la carrozzeria, concessionari, elettrauto, con un occhio di riguardo anche ai mezzi pesanti. Una rassegna storica che quest'anno compie 50 anni, la prima edizione della Biennale sempre qui a Bologna, risale infatti al 1967, 1650 espositori, il 42% stranieri, in rappresentanza di 53 paesi, 14 padiglioni e 5 aree esterne per uno spazio totale di 158.000 metri quadrati. Gli espositori italiani sono 962, questo è un altro comparto del Made in Italy che valica con successo i confini, ce lo spiega meglio con i numeri Fabrizio Servadei, amministratore delegato di Autopromotech, ascoltiamolo. Nel settore dell'aftermarket dell'auto l'Italia è leader assoluto a livello internazionale, nelle attrezzature esportiamo l'80% della produzione di componenti, ne produciamo secondo i dati Anfia 38,5 miliardi di euro, ne esportiamo 19 miliardi, abbiamo una bilancia dei pagamenti in positivo di 5,8 miliardi. Tante macchine anche prodotte all'estero hanno componenti prodotti in Italia. Ad Autopromotech l'attenzione è rivolta al futuro, che in qualche modo è già presente. Mi riferisco chiaramente all'auto che va da sola o guida assistita, collegata in tempo reale ai centri di assistenza ai quali trasmettere informazioni, praticamente un check-up costante, un'officina 4.0. La prospettiva, che solo poco tempo fa sembrava fantascienza, quindi è definita, resta da capire come ci arriveremo. Se ne parlerà ad Autopromotech in vari incontri e convegni, come si parla e si parlerà da oggi fino a domenica di veicoli sempre più sostenibili, quindi meno inquinanti e più sicuri. A te, Simone. Grazie dunque ad Andrea Ferro per questo aggiornamento da Autopromotech. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo da questa storia terribile che arriva da San Severo, provincia di Foggia, un duplice omicidio e la scomparsa di un ragazzino di 17 anni, il figlio della coppia uccisa, che tra l'altro era stato anche responsabile di un altro omicidio. San Severo dunque che torna sotto i riflettori dopo i problemi di sicurezza che avevamo visto nei mesi scorsi e anche la vicenda del ghetto di Rignano, ve lo ricordate, il luogo nel quale venivano raccolti in una sorta di baraccopoli tantissimi migranti che poi lavoravano nelle campagne. Resteremo sempre in Puglia per la tappa successiva del Giro per l'Italia, una storia decisamente più leggera ma che ci ha fatto discretamente ridere, la storia di un consigliere comunale che non ne può più dei piccioni e paga dei volontari per andare a distribuire contraccettivi ai piccioni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta da Bologna, da Autopromotech. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assemblea di Confindustria, della relazione del presidente Boccia, abbiamo parlato di Trump che è a Roma e tra poco ripartirà, abbiamo parlato naturalmente dell'attentato a Manchester e di un'operazione contro la camorra che ha a che fare anche con gli affari, che ha portato all'arresto di due fratelli di un deputato di Forza Italia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da San Severo, luogo nel quale torniamo e continuiamo a tornare. Ce ne siamo occupati in passato perché era il luogo nel quale ricadeva in gran parte il cosiddetto granghetto di Rignano, lo ricorderete, era il posto nel quale venivano ammassati in una vera e propria baraccopoli che era quasi diventata una cittadina autonoma, moltissimi immigrati che poi venivano impiegati nelle campagne. È il luogo nel quale è scattato un allarme sicurezza nelle settimane scorse e nel quale alla fronte di un rafforzamento del dispositivo di sicurezza si sono registrati spari contro una camionetta della polizia. È il luogo nel quale questa mattina due persone sono state trovate uccise a colpi di pistola all'interno di una gioielleria. Francesco Miglio, sindaco di San Severo e tra l'altro anche presidente della provincia di Foggia. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. A testimonianza, poi vedremo come andrà a finire questa vicenda, si sa che il figlio di 17 anni di questa coppia è sparito, che l'uomo era un pregiudicato, la vittima, la persona assassinata era un pregiudicato, a testimonianza che l'allarme sicurezza che lei lanciò qualche mese fa e che portò al rafforzamento dei dispositivi evidentemente non si è ancora esaurito. Come vanno le cose? Sì, io voglio innanzitutto dire che rispetto alle richieste che noi abbiamo fatto, gli impegni immediati da parte del governo hanno avuto un riscontro, nel senso che la cittadinanza, noi tutti, abbiamo notato e verificato un potenziamento del controllo sul territorio. Questo va detto ad onor del vero. Tuttavia la problematica continua ad essere critica, grave. L'episodio di questa mattina, al di là di chi possa essere stata la vittima, per le modalità con cui si è compiuto questo omicidio, danno il senso di una situazione di grave insicurezza. Se è vero come è vero che il fatto criminoso si è consumato alle 9:30, quindi in pieno giorno, in una zona centralissima della città, e quindi in quell'ora anche molto frequentata da cittadini, proprio perché insiste nei pressi di un mercato ortofrutticolo, e comunque è una zona centralissima della città. E quindi in questo momento la questione emergenza a San Severo si ripropone in tutta la sua evidenza. Io tant'è vero ho già chiesto un comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica al prefetto che terremo domani alle 10. Ho sentito telefonicamente il capo di gabinetto del ministro dell'interno, il prefetto Mario Morcone, a cui indirizzerò una lettera nelle prossime ore in cui descriverò il quadro di queste settimane, di questi mesi della nostra città, che comunque continua ad essere, ahimè, interessata da questo grave fenomeno. Non a caso, sindaco, indaga l'antimafia di Bari su questa vicenda, no? Sì, rientra nell'orbita delle competenze dell'antimafia, anche perché, come lei poc'anzi sottolineava, dalle prime notizie che si hanno, la vittima, oltre ad essere un pregiudicato, risulta essere, almeno da quello che si sente dire, poi saranno le indagini e le autorità preposte a verificarlo, è il papà di un minore che anche lui nei mesi scorsi si è reso, diciamo, autore di un fatto criminoso. Ecco perché probabilmente dietro questo omicidio non vi è un fatto di criminalità locale o di microcriminalità, come era accaduto per gli altri episodi precedenti, ma probabilmente c'è uno scenario delinquenziale ben più complesso che merita di essere attenzionato da una procura speciale sindaco, come l'antimafia. Sindaco, ma come mai proprio da voi? È una forma di penetrazione storica nel vostro territorio della criminalità organizzata? Da cosa dipende? Senta, io sento di dire che la mia città vive una situazione che per la verità è, ahimè, comune a tanti altri centri della Capitanata, penso a Cerignola, penso al Gargano, penso a Foggia, cioè oggi la provincia di Foggia, e parlo anche nella veste di presidente della provincia, è interessata da un fenomeno criminoso che merita un'attenzione particolare rispetto al passato, proprio perché sta assumendo delle connotazioni un attimino più preoccupanti. Per questo io avevo formalizzato una richiesta al ministro Minniti di istituire in provincia di Foggia un reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato, richiesta che mi risultava era valutata da parte del Dipartimento Ministeriale competente, e a questo punto credo che sia una questione urgente a porre in essere gli atti necessari per questo potenziamento del controllo del territorio attraverso dei reparti specializzati, tenendo conto dell'impegno pur massimo che viene profuso dai vertici provinciali delle forze dell'ordine, ma che al momento, con i mezzi scarsi di cui dispongono, si trovano, diciamo, a fronteggiare un fenomeno che sta assumendo una complessità, diciamo, che ha proprio i caratteri della straordinarietà. La ringrazio, grazie al sindaco di San Severo per essere stato con noi, e siamo in provincia di Foggia. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso nel napoletano per continuare ad occuparci di criminalità organizzata, ed è una storia che ci colpisce tra le tante storie che abbiamo raccontato delle stese e delle violenze tra minorenni per il controllo del territorio. Ce n'è un'altra che è spuntata oggi e che riguarda un omicidio che risale più o meno ad un anno fa, poco meno di un anno fa, un omicidio del giugno del 2016, un duplice omicidio che, da quel che si è appreso oggi dalle forze dell'ordine, sarebbe stato organizzato, messo in piedi e poi realizzato da un ragazzino di 15 anni, un vero e proprio agguato all'interno di un appartamento. Siamo in linea con Nico Falco, che è cronista del Mattino di Napoli. Ciao Nico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, grazie. Allora, la storia è da dove nasce questa storia? Allora, la storia nasce innanzitutto nei sistemi camorristici della periferia napoletana, in questo caso parliamo di Melito di Napoli, che è uno dei paesoni in provincia di Napoli dove si sono stabiliti gli scissionisti. Adesso chi sono gli scissionisti? Sono un gruppo criminale che è nato dopo la scissione del clan di Lauro, che fino a più o meno 20 anni fa governava praticamente indisturbato su Scampia. C'è stata questa scissione interna e si è staccato questo gruppo degli Amato Pagano, che poi da Scampia si è anche esteso alla provincia. Questo, diciamo, nel generale. Sì. Nello specifico, è il contesto. Nello specifico, questo duplice omicidio nasce, come tanti in questo ambiente, dal traffico di droga. Questo ci dicono le indagini dei carabinieri, perché in sostanza, dopo più o meno un anno di indagini, approfondimenti, eccetera, è stato accurato che questo ragazzino, che è nipote dei due capoclan, quindi di Amato e Pagano, avrebbe agito insieme a due complici maggiorenni che sono ancora in via di identificazione, proprio per favorire il clan, tant'è vero che non ha avuto soltanto diciamo, l'accusa di duplice omicidio, ma anche l'aggravante articolo 7, quindi la finalità camorristica. E il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che queste due persone che sono state uccise avrebbero cercato di di gestire l'illecito che era comunque apparso degli Amato Pagano oltre i dettami del clan, quindi con strategie che andavano in contrasto con quelle del clan, di mettersi un po' in proprio, diciamo. Dunque, questo il quadro. Avrebbero tentato, per così dire, di rendersi autonomi, no? Rispetto al clan. Il mandante sarebbe stato proprio questo ragazzino di 15 anni. Esattamente, purtroppo noi, questo ci dicono i carabinieri, lui ci risulta come ideatore, organizzatore e anche esecutore, quindi oltre che mandante lui era anche presente quando c'è stato questo duplice omicidio. Questo è dunque il punto che arriva da Napoli. Allora io ti ringrazio, grazie al collega del mattino Nico Falco che ci ha aiutato a raccontare questa vicenda. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi altre due storie. Una arriva dalla Liguria, dove c'è l'ANCI che protesta contro le COP che si occupano di accoglienza dei migranti. Perché? Perché c'è un fenomeno di pendolarismo dell'accattonaggio, di persone che sono ospitate dalle COP, sono ospitate nei centri di accoglienza e però si pigliano l'autobus tutte le mattine, vanno a fare l'elemosina, poi tornano indietro nel centro di accoglienza. E l'ANCI Liguria dice: guardate, qua è un problema e chissà che dietro non ci sia il racket. E poi la vicenda dei contraccettivi ai piccioni, perché anche qua ce n'è da dire. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli nel paese: carenze croniche e 20 anni persi, dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia all'assemblea annuale. Il proporzionale può essere fatale per l'Italia, aggiunge. L'attentato di Manchester, le ultime notizie raccontano e vengono diffuse dalle agenzie in questi minuti che la famiglia dell'attentatore di Manchester aveva avvertito in passato le autorità britanniche della pericolosità del giovane, lo ha detto un funzionario dell'intelligence americana alla NBC. Trump a Roma, l'incontro col Papa, è il Papa che gli ha regalato un libro sull'ambiente, è in corso il vertice col Presidente del Consiglio Gentiloni. Rapporti coi clan per affari, Manetti, Cesaro, fratelli di un deputato di Forza Italia, sequestri per 70 milioni di euro. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, per il nostro giro per l'Italia. E ci riporta nella fattispecie a Bari. Qua io vi devo fare una confessione. Io i piccioni non li sopporto, va bene? Li trovo degli animali che, soprattutto in città, mi danno fastidio, a parte il fatto che, essendo umbro, naturalmente mi piacciono quando poi sono nel piatto e so che adesso mi attirerò la rabbia di tutti i vegetariani e vegani. E cosa fa Giuseppe Carrieri, che è consigliere comunale a Bari? Evidentemente la pensa come me, perché ha pensato di distribuire dei contraccettivi ai piccioni. Carrieri è con noi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, che cosa ha fatto? Mi scusi, me la spiega un po' meglio questa cosa? Ma guardi, è un problema quello dei colombi urbani, perché sono portatori di parecchie malattie, spesso imbrattano monumenti, strade, scuole, edifici, tutto. E quindi noi abbiamo pensato di rimboccarci le maniche e di vedere se in commercio c'è qualcosa che possa in qualche modo ridurre la proliferazione dei colombi, perché è il numero dei colombi quello che dà problemi, non il colombo in sé. Abbiamo trovato su internet che c'è un'azienda che da anni produce un mais in granella che all'interno ha una sorta di contraccettivo che non fa riprodurre i colombi. L'abbiamo acquistato e ora da ora sino a ottobre, che è il periodo di riproduzione dei colombi, lo distribuiremo in una piazza di Bari per vedere se ha effetto, se appunto il numero di questa colonia di colombi si riduce, per ridurre così i problemi. Sì, però c'è stata una polemica abbastanza forte, soprattutto da parte del Partito Democratico. Qualcuno in Consiglio Comunale ha detto: beh, ma non è possibile che in questa città ognuno si alza e fa come gli pare, cioè uno decide di dare i contraccettivi ai piccioni, va in piazza e dà il mais contraccettivo ai piccioni. Lei che dice? Allora, innanzitutto noi abbiamo ovviamente informato dell'iniziativa sia il sindaco della città che anche l'ASL veterinaria, quindi abbiamo assolutamente informato di quello che stavamo facendo. Abbiamo chiesto se ci sono delle prescrizioni particolari, visto che questo prodotto non ha delle prescrizioni particolari, visto che appunto è innocuo. Ma De Caro quindi è d'accordo, il sindaco è d'accordo? Ma è un silenzio assenso, nel senso che nessuno mai ci ha detto assolutamente no, non fate questo. Peraltro il sindaco è anche abbastanza d'accordo, perché io poi insieme a questo ho fatto anche un emendamento al bilancio del comune che il sindaco mi ha invitato a ritirare, perché ha detto: non ti preoccupare, non c'è bisogno che stanziamo delle somme, mi impegno io a fare una sperimentazione analoga attraverso l'azienda municipalizzata nei prossimi mesi. Nel frattempo che lo fa l'azienda, sì, lo stiamo facendo anche noi per verificare se in effetti c'è un risultato tangibile. Perché ci ha messo i soldi suoi lei, tra l'altro, no? Io ci ho messo i soldi suoi miei, perché penso che insomma la politica debba dare a volte l'esempio, e io invece di aspettare ho messo i soldi, che sono i soldi del compenso che percepisco ogni mese dal Comune di Bari, e ho comprato questo mangime insieme a alcuni volontari, lo distribuiamo ogni giorno, ripeto, da oggi fino a ottobre, per vedere se riusciamo a ridurre, sì, questo problema. Fatto sta che in via Fanelli, sempre a Bari, alcuni piccioni, sì, pare che siano piombati giù dagli alberi, morti in questa mattinata, quindi sì, forse... No, impossibile, guardi, è impossibile che queste cose siano collegate, assolutamente impossibile. Bisognerà fare un'autopsia a questi altri colombi per vedere perché sono morti, ma sicuramente non è dal mangime che stiamo distribuendo, questo è certissimo, non certo. Vabbè, siamo all'autopsia ai colombi. Grazie Giuseppe Carrieri, consigliere comunale a Bari, per essere stato con noi. Vedremo come finirà questa vicenda dei piccioni. Passiamo ad un argomento più serio. Pierluigi Vinai, direttore di ANCI Liguria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Avete inoltrato voi una sorta di protesta, perché? Perché ci sono molti migranti che si trovano nei CASI, i centri di accoglienza straordinaria, che fanno i veri e propri pendolari dell'accattonaggio, per così dire, cioè prendono un pullman o la bici o qualcosa di questo genere la mattina, arrivano in alcuni comuni di riferimento sempre negli stessi posti, poi la sera tornano indietro nei centri di accoglienza. È così? Sì, noi ci siamo limitati a registrare la segnalazione di molti sindaci che hanno evidenziato questo problema che avviene nei loro comuni, cioè una presenza abbastanza continua e abbastanza metodica di questo fenomeno, cioè di questi ragazzi che chiedono l'elemosina. Ora, tra l'altro, questo è un fenomeno che non dovrebbe verificarsi, soprattutto quando queste persone sono ospite dei cosiddetti CAS, cioè centri di accoglienza straordinaria, poiché i soggetti gestori ricevono dallo Stato una diaria pro die pro capite che deve coprire, e copre infatti a tutti gli effetti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e anche il cosiddetto pocket money. Pertanto, sì, non c'è proprio nessuna ragione che avvenga, sì, questo il cibo fenomeno. Lei dice il cibo ce l'hanno perché appunto sono nei centri di accoglienza, no? I centri di accoglienza straordinaria. C'è anche il pocket money, ne abbiamo parlato mille volte, sono quei pochi soldi che vengono dati per le spese quotidiane, per così dire. Due euro e mezzo, quindi come dire, non c'è veramente alcun bisogno che vadano a fare l'elemosina. Qua avete raccomandato alle coop che gestiscono questi centri come dire, una maggiore attenzione. Esatto, infatti abbiamo raccomandato questo, pur comprendendo che le cooperative, le associazioni che gestiscono in questo momento come dire, sono spesso sotto organico, sono spesso in difficoltà perché anche le risorse arrivano con un certo ritardo, però la copertura finanziaria è garantita dallo Stato e è congrua, è decisamente congrua, per cui anche al fine di evitare poi speculazioni politiche, situazioni in cui si gioca su questa partita, le varie campagne elettorali, bene, cerchiamo di essere più prudenti e più attenti tutti e evitiamo che avvenga questo atteggiamento, anche perché poi alle volte si mischiano questi ragazzi con altri che invece non appartengono ai CAS, però la gente ovviamente non è in grado di distinguere. Mi scusi, direi, c'è un punto. Nel momento nel quale mi si dice arrivano sempre più o meno alle stesse ore, se ne vanno sempre più o meno alle stesse ore, si mettono sempre negli stessi punti, a me la parola che balena in testa è racket, lo dico molto brutalmente. Io non sono in grado evidentemente di avere elementi che possano confermare questo, però è chiaro che nella testa delle persone, dei cittadini, può farsi strada questa chiave di lettura, e a maggior ragione bisogna evitare che ciò avvenga. Ma che mezzi hanno le COP per evitare questo? Perché parliamoci chiaro, le persone che stanno là non è che sono in un centro di detenzione o in un centro di accoglienza, sono sostanzialmente libere. Sì, però c'è l'impegno ad una in questa attività di accoglienza a fargli svolgere alcune azioni, ad integrazione linguistica, a mediazione culturale, e quindi la giornata la si impegna anche. Inoltre, quando li si porta in giro, bisognerebbe in qualche modo accompagnarli, non lasciarli neppure andare così allo stato brado, no? E poi magari si può con i comuni presso i quali si è in ospitalità individuare delle forme di collaborazione. Ecco, facendo queste cose evidentemente si va ad annullare il rischio, perché la giornata la copre assolutamente. E se invece allora ciò non avviene e si lascia andare così, poveretti, anche in maniera confusa, perché poi non hanno la padronanza della lingua, non conoscono il territorio più di tanto, e possono anche, proprio anche per una tutela della loro dignità, bisogna evitare che possano diventare strumento ed oggetto di attenzione anche da parte di criminalità organizzata. La ringrazio, grazie per Luigi Vinai, direttore di ANCI Liguria, per essere stato con noi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.